Slalom. Flashback. Su CRM Happy Radio va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. 11.08, buongiorno a tutti da Francesco Puglisi. Inizia Slalom, una trasmissione che vi terrà compagnia sino alle ore 13 in diretta su CRM Happy Radio, la radio che potete seguire anche tramite il nostro sito internet che è www.crmhappyradio.it. Vi ricordo inoltre i nostri numeri telefonici che sono il 335 56 37 251 oppure lo 0921 92 32 92. Oggi è il 4 di marzo 2013, ricordiamo questa sera l'appuntamento in TV con la grande kermesse per ricordare la scomparsa del grande Lucio Dalla. Noi abbiamo parlato comunque venerdì nella parte finale della trasmissione, abbiamo detto anche quella storia, quella simpatica poesia che lui stesso aveva scritto prima purtroppo di venire a mancare, dove praticamente faceva un po' un quadro di quella che era stata la sua vita. Durante il corso di questa trasmissione avremo il piacere di sentire qualche altro pezzo del nostro ben amato cantante, ma comunque adesso partiamo subito con la musica. Come ho detto anche l'altra volta, il Puglisi è qua e la Curreri è andata via. Partiamo subito con la musica e lo facciamo adesso con Rafael Gualazzi. Questo è Fresco Fresco dall'ultimo festival della canzone italiana di Sanremo. La canzone non è stata gradita al 100% dal pubblico, a me piace in maniera particolare, si intitola Sai. Apri gli occhi e te ne vai, la danza è immobile, scopre i tuoi fianchi il vento e nei giorni ogni momento vorrei percorrere le tue volute velleità. Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me, memore che porta il tempo, avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì, avrei saputo credere, così libera nei sensi, la luce mormora dalla finestra stanca, la tensione dei silenzi sembra descrivere ogni tuo sguardo perso. Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato le porte ipocrite di un paradiso, avrei toccato quell'anima che vive dentro te. Sopravvivere ci basta un sogno, sai, oh sai, per sopravvivere ci basta un sogno, sai. E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso. Sentirai una forza dentro te che vince ogni limite. Sopravvivere ci basta un sogno, sai, oh sai, per sopravvivere ci basta un sogno, sai. Abbiamo un bel primato anche quest'anno, nell'anno trascorso, 2012, perché comunque per adesso si parla di dati che riguardano l'anno da poco concluso. In Sicilia circolano circa 829 auto blu, e questo ci permette di essere al primo posto per quanto riguarda la pubblica amministrazione ad avere le auto blu. Slalom. Flashback. Thank you. Quanti bei ricordi accompagnano questa canzone, poi è stata rielaborata dai Dick Dick in una versione italiana, e quest'oggi l'abbiamo ascoltata nella versione originale dei Protocol Harum, era il 1975. Riallacciandomi alla notizia che avevo dato prima per quanto riguarda le auto blu in Sicilia, dobbiamo precisare questo, che rispetto al 2011 sono scese le auto, perché nel 2011 erano circa 1250, invece nel 2012 sono 829, quindi c'è stato da parte dell'amministrazione pubblica un certo sforzo per ridimensionare quelle che sono le spese pubbliche. Speriamo bene che continui così il processo, anche perché comunque alla fine siamo sempre al primo posto. CLM. L'influenza fa cambiare le mie fantasie, le modifica e poi le rimodella d'arte. Non sono stato mai capace di decidere cosa meglio sia e cosa definire male. Mi servirebbe sapere se l'altra notte quando hai detto che sei stata tanto bene eri sincero oppure avuto solamente una parentesi di un'ora pure scarsa. E non mi va di privarmi della calma e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. Servirebbe sapere la strategia per aggirare tutte quante barriere, o quale sia la strada giusta per giustificare il male ed alleviare il dispiacere. Mi servirebbe saperlo quanto prima e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. Forse alla fine mi piace un po' così, soffrire e farmi abbandonare qui, deciditi. Oh! piacerebbe sapere le contromosse utilizzate per lenire le mie pene e sopperire finalmente alla tua luce intermittenza, per dotarmi di pazienza. In fondo mi è piaciuto, a me n'ha dito, allora fammi male. Allora, chi è uno stupratore, di per sé uno stupido, un idiota, uno sfigato, tutte le male parole che si possono dire, perché comunque togli la libertà alle donne. Ma quello che è successo a Phoenix, un ragazzo 21enne preso dall'effetto contemporaneo di alcol, marijuana e cocaina, praticamente guidando e rientrando, quindi cercando di rientrare a casa, ha incontrato una donna, una ragazza, e la cosa allucinante che ha fatto cos'è? Quella di caricarla in macchina e praticamente l'ha violentata, e non contento di ciò gli ha lasciato il numero telefonico, il bigliettino col numero telefonico. È stato subito arrestato. Complimenti per la stupidaggine ancora più grande. Argento fra le stelle. New York è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di. Là fuori Union Square entrava luce al neon dal vetro di una finestra, l'odore del caffè, guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire. E chi non ha mai visto nascere una terra non lo sa che cos'è la felicità. Garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu. Il loro nome, argento fra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore. Chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York è una scommessa d'amore. Chiamami e ti vestirò come una stella di. Per numero di scommesse i siciliani si piazzano al quinto posto in classifica nazionale. È il 6,5% del budget familiare speso nel gioco d'azzardo, quindi investiti in concorsi, gratta e vinci, lotteria, videopoker e scommesse, tutte le insidie. La ludopatia è stato un manuale redatto dall'Adiconsum e spiega ai consumatori i danni e le cause da cui ne deriva. Quindi attenzione veramente, non so se qualcuno di voi fa caso che davanti ai tabaccai c'è veramente un caos. Credo negli angeli ma frequento l'inferno, colgo occasioni così senza necessità. Sono la Venere che risorge dal niente, non conosco più la mia vera identità. Leggo gli oroscopi ma aspiro all'eterno, fuochi in estate per noi, nuove ritualità. nessuno la sente, e già piove sull'età della vanità. Slalom Flashback. Bob and Tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella. Salutiamo Antonella che ci ha richiesto questa canzone firmata Arts, il titolo è Miracles. I pompieri sono stati chiamati in Atlanta, in Georgia, perché chiamati per un incendio. Sicuramente chi li ha chiamati non è un noto frequentatore di locali strip club, infatti praticamente ha visto uscire del fumo, ma era soltanto la macchina del fumo. I see you again. I said I love you. You said goodbye. Everything changes in the blink of an eye. It's It's been a while, I still carry the flame. I wanna know if I see you again. See you again. L'Eden Hotel di Taiwan ha realizzato una suite totalmente dedicata al famoso eroe mascherato, protagonista di numerosi fumetti e di film, ed è stato realizzato con non soltanto l'iconico logo dell'uomo pipistrello, ma diversi mobili sono ispirati a mezzi utilizzati da Batman durante i film e durante i cartoni animati. Pensate un poco. Slalom Flashback. Ho piantato vino e sigarette, tu sai perché. E non ci vedo e risparmio gli occhiali, è tutto per te. Vivo solo col mensile di impiegato comunale, spacco lira, spacco soldo e mi spacco pure me. Mi arrovello, mi arrabatto per accontentare te, e tu invece te la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata? Mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, come ridotto quest'uomo per te. Ho comperato un orologio inglese 3 anni fa, e son 3 anni che mi seguo a stato e che non va. Sto vestito grigio scuro ha cambiato di colore, e si è fatto verde chiaro, era quello di papà. E mi ha detto il vecchio sarto, non lo posso rivoltare, l'ho già troppo rivoltato e più di questo non si fa. Agata, tu mi capisci, Agata? tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, dove ridotto quest'uomo per te. Ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. La mattina soltanto un bicchiere d'acqua senza caffè. Vengo a casa e non ti trovo, e la chiave dal portiere. Dove andare? Ma a ballare. Mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme ogni sera dopo il tè. Ora faccio un solitario, guardo in cielo e penso a te. Agata, tu mi capisci, Agata, ma tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci. Questa canzone è super gettonata, secondo me, anche perché l'ho avuto modo di sentirla nei vari locali che l'estate, diciamo, fanno in modo che la gente cominci a ballare a più non posso. Ed è molto seguita, perché comunque, grazie all'animazione, viene sempre molto diversamente interpretata. Noi questa mattina abbiamo voluto riascoltare, del resto facciamo all'interno di questa trasmissione, non soltanto musica attuale, ma musica di qualche anno fa, anche per portarci indietro col tempo. CRM Happy Radio, la tua radio. Metà dei rifiuti berlinesi trasformati in energia nell'impianto di Rubenblein, garantito lo smaltimento, l'attività della centrale contribuisce ad abbassare le tasse e a renderla più stabile. L'esperienza messa a punto, pensato un po' già dal 1967, è da studiare. Da quando è sorto lo stabilimento ha già subito tre sostanziali modifiche, ma grazie a questa esperienza c'è un ricavo del 5% sul totale delle tasse. Take it by your silence, I'm free to walk out the door. By the look in your eyes I can tell you don't. Choose to go. Come disse in tantissimi anni fa il comico Totò, la loro di Napoli era monnezza. E diciamo che, considerando quello che si legge nei vari giornali, che l'evoluzione della trasformazione della spazzatura potrebbe portare dei benefici, perché non approfittarne anche in Sicilia, visto che in Europa la produzione di energia si fa con l'80% con i rifiuti urbani. CRM Happy Radio, la tua radio. Slalom, flashback. Tears, altra canzone degli anni 70, firmata Afrofile Child. Sicuramente parecchi voi si ricorderanno la voce inconfondibile di Demi Roussos. Sono le 11.58, mancano due minuti a mezzogiorno, abbiamo già fatto fuori un'ora della trasmissione Slalom, che vi terrà compagnia sino alle ore 13 in diretta su CRM Happy Radio, la radio che potete seguire anche tramite il nostro sito internet, che è www.crmhappyradio.it, 335 56 37 251 oppure 0921 92 32 92 per fare le vostre richieste musicali, ma anche i vostri saluti. Ritornando alla notizia che avevamo dato prima a proposito della spazzatura, quindi dei rifiuti urbani, sarebbe opportuno che questa venisse anche per evitare il problema delle discariche, e quindi, come avviene in Germania, non ci sono più discariche, perché tutta la spazzatura, quindi i rifiuti urbani, vengono riciclati e quindi viene prodotta energia sia elettrica che calda. Penso da lontano ed ogni volta è come avvicinarti un po'. Per ogni anima tagliata l'amore è sangue, futuro e coraggio. A volte sogni di navigare su campi di grano e ne ritorni, quella bellezza resta in una mano. E adesso che non rispondi, fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero, e tu da lì mi sentirai. Aspetta, ferisce questa terra dolce e diffidente, ed ho imparato a comprendere l'indifferenza che ti cammina accanto, ma le ho riconosciute in tanti occhi le mie stesse paure, ed aspettare è quel segreto che vorrei insegnarti. Matura il frutto, il tuo dolore non farà più male, e adesso alza lo sguardo, difendi con l'amore il tuo passato, ed io da qui ti sentirò vicino. Clandestino, fermare gli occhi in un istante e poi sparare in mezzo al cielo il tuo destino. Per ogni sogno calpestato, ogni volta che hai creduto in quel sudore che ora bagna la tua schiena, abbraccia questo vento e sentirai che il mio respiro è più sereno. La Corte dei Conti aveva fermato i piani del sindaco Lapunzina, adesso torna tutto in discussione, il TAR quindi stoppa l'iter per il distesto, avanti con il piano del risaneamento, amministrazione al lavoro per far accedere Cefalù al fondo comuni. Complimenti al nostro sindaco. Slalom. Flashback. Oh.

Phil Collins con i Genesis, questa mattina ospiti di Slalom con His Lover, una canzone del 1980 che questa mattina, grazie a una vostra richiesta, abbiamo voluto proporvi. Continuiamo ancora con la musica, lo facciamo questa volta con l'ultimo festival della canzone italiana di Sanremo. Loro sono arrivati al terzo posto e conferma ancora di più l'apprezzamento da parte del pubblico verso di loro. Sono i Mudà. La canzone si intitola Se si potesse non morire. Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare, frantumerei il mio cuore in polvere di sale per coprire ogni centimetro di mare. Se potessi mantenere più promesse in cambio avere la certezza che le rose fioriranno senza spine, cambierebbero le cose. Ti immagini se con un salto si potesse anche volare, se in un abbraccio si potesse scomparire, e se anche i baci si potessero mangiare, ci sarebbe un po' più amore e meno fame, e non avremmo neanche il tempo di soffrire. Poi ti immagini se invece si potesse non morire, e se le stelle si vedessero col sole, se si potesse nascere ogni mese per risentire la dolcezza di una madre e un padre, dormire al buio senza più paure, mentre di fuori inizia il temporale. Se si potesse regalare un po' di fede a chi non crede più nel bene, e gli animali ci potessero parlare, cominceremmo a domandarci un po' più spesso se nel mondo sono loro le persone. Se potessi camminare verso il cielo ad occhi chiusi, consapevole che non si smette mai di respirare, cambierebbero le cose. Ti immagini se con un salto si potesse anche volare, se in un abbraccio si potesse scomparire, e se anche i baci si potessero mangiare, ci sarebbe un po' più amore e meno fame, e non avremmo neanche il tempo di soffrire. Poi ti immagini se invece si potesse non morire, e se le stelle si vedessero col sole, se si potesse nascere ogni mese per risentire la dolcezza di una madre e un padre, dormire al buio senza più paure. Allora, un'azienda palermitana realizza abiti riutilizzabili nei 9 mesi per le donne in stato di gravidanza. Questa è una bella cosa, vestire a costile le donne in gravidanza, è questo lo spot o quantomeno il messaggio di questa azienda. Sono gli eroi, se il gioco si fa duro da giocare, beati loro poi se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra e ambire poi alla pace, e nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. dentro il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero poche stupide. Abbiamo accontentato anche Alessia che ci ha richiesto Muda e Francesca che invece ci ha richiesto Marco Mengoni con l'essenziale, che fra le altre cose è colui che ha vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo. Adesso vogliamo proporvi una canzone che hanno scritto dei ragazzi di Sciara qui a due passi da Cefalù. Sono Gaetano Rini e Luciano Di Noto, se non vado errato, perché è scritto veramente male questo messaggio. Fra le altre cose è un tema veramente importante perché parla della violenza sulle donne. Noi stamattina abbiamo letto un articolo su internet che veniva dall'altra parte del mondo, ma è la stessa cosa anche se fosse qui, perché secondo me e secondo tantissime altre persone non si dovrebbe mai alzare un dito contro le donne. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. Da bambino mi abbracciavi e fra una lacrima e un sorriso sussurrando mi dicevi: tu sei un eroe, io non capivo il dolore e tutta la tristezza chiusa in quelle parole. Tu sei un eroe, e stavo zitto ed estasiato, con gli occhi grandi come stregato, e ti ammiravo e ti ammiravo. Passati anni ormai, ho sempre in mente quella domanda: perché sono un eroe? Perché sono un eroe? Perché sono un eroe? Se sei un eroe c'è un perché, un cuore grande come il tuo Allora facciamo i complimenti a questi ragazzi di Sciara che hanno scritto questa canzone. Gaetano Rini in maniera particolare ha scritto questa canzone dedicata soprattutto a un tema molto importante che è la violenza sulle donne. Pensate un po' che la violenza sulle donne è aumentata in Italia. I dati del telefono rosa connotano che sempre più sul piano fisico l'autore è il marito del 48%, il convivente il 12% e l'ex il 23%. È quasi sempre che questo avviene tra le mura domestiche, nel rapporto con il marito, il convivente o l'ex. Avviene sempre più davanti ai figli, testimoni atterriti che poi a loro volta potranno diventare carnefici. La violenza sulle donne è un fenomeno che in Italia non diminuisce e si connota sempre più come violenza fisica. A testimoniarlo le 124 donne ferocemente uccise nel 2012 in nome di un amore malato e assassino. La violenza fisica aumenta da 18% al 22%, ma questo non è mai solo, poiché la violenza psicologica, le minacce e la violenza economica sono altri comportamenti ad essi connessi. Auguri a questi ragazzi, speriamo che questo messaggio in questa canzone possa essere un messaggio del resto veramente profondo. Slalom Flashback. Stai ascoltando Slalom su CRM Happy Radio. Thank you. Chester Cathedral, the armor ringing me down. You stood and you watched as my baby left home. You could have done something, but you didn't try. You didn't do nothing. Needed that girl, she wouldn't have gone far away if only you'd started ringing your bell. Oh, Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched as my baby left home. Abel-de-el-del. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti. Abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva. Ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene, pioggia, vento e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e una ragione per vivere, per sollevare le palpebre e non restare a compiangermi, e innamorarmi ogni giorno, ogni ora, ogni giorno, ogni ora di più, oh, di più, oh, di più. Abbiamo confidenza con i demoni interiori, sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva. Ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene, pioggia, vento e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e una ragione per vivere, per sollevare le palpebre e non restare a compiangermi, e innamorarmi ogni giorno, ogni ora, ogni giorno, ogni ora di più. Pioggia, vento, sangue nelle vene. Mancano circa 20 minuti alla chiusura di questa trasmissione. Vi ricordo che è presente all'interno della programmazione di CRM ogni lunedì e venerdì dalle 11 alle 13 in diretta su CRM Happy Radio, la radio che potete seguire anche tramite il nostro sito internet che è www.crmhappyradio.it. Da lì potete sia interagire con noi facendo le vostre dediche o richieste, ma potete anche, se volete, riascoltare le canzoni, riascoltare, ma soprattutto potete riascoltare i programmi che durante il corso della giornata vi tengono compagnia. Vi ricordo inoltre i nostri numeri telefonici, che sono 335 56 37 251 per gli sms, o se volete parlare direttamente con noi allo 0921 92 32 92. Adesso Neffa, molto calmo. Devi stare molto calmo, devi stare molto calmo, devi stare molto calmo. Devi stare molto calmo, devi stare molto calmo. Quando il treno se ne va, quando il tempo se ne va, quando tutto se ne va, quando con incontro a chi, con le braccia chiuse, non ho occhi più per te, ci sono i segni che si vedono, e gli altri che si sentono. Devi stare molto calma, devi stare molto calma, devi stare molto calma. Le più belle storie che tu puoi sognare, quando non ti lasciano, quando non perdonano, quando gridi no, quando non è certo lui, ma la tua vergogna che ti fa più paura, ci sono i segni. Belle sexy e siciliana, Giorgia Crivello è uno dei volti nuovi della televisione italiana e sembra intenzionata a fare molta strada, da DJ TV alla conduzione delle Yemi e Trip. Giorgia è una delle ragazze più cliccate del momento, la madre è lombarda, però il papà è siciliano. Giorgia ha appena 23 anni ed è già una star del web. Rimaniamo in tema di Civello, con questa si chiama veramente Crivello, lei invece è Civello. Chiara Civello. Seguo l'immaginazione, la strada dei passi passati da qui. Sento una dolce evasione negli occhi che mi hanno guardato così. Trova una buona ragione, qualcosa da fare per dirmi di no. Fuori c'è un sogno che aspetta soltanto i tuoi baci per vivere un po'. Baci per vivere un po'. Impossibile. sensazione, qualcosa già esiste, che lo voglia o no. C'è un'emozione che aspetta soltanto i tuoi baci per crescere un po', baci per cantare un po' più in alto di questo cielo, impossibile cadere giù se distesi in un prato di stelle, in uno sguardo c'è l'infinito, le parole non parlano più perché adesso al posto del mondo ci sei tu. Sembra che Chiara Civello sia scomparsa del tutto, al posto del mondo, e l'unica interpretazione che abbiamo fatta l'anno scorso nel Festival della Canzone di Sanremo di Sanremo, nel Festival della Canzone Italiana di Sanremo, poi non si è sentito più niente, cioè non sappiamo che fine abbia fatto, non sappiamo nemmeno se canta ancora, perché effettivamente non c'è stata nuova produzione. E vabbè, per adesso ci sentiamo soltanto questa canzone che tutto sommato è gradevole, si scioglie bene il ritmo delle nostre menti. Al posto del mondo, alle 12.49 in diretta su CRM all'interno di Slano, una trasmissione che vi terrà compagnia sino alle ore 13. Mancano poco più di 10 minuti alla chiusura di questa rubrica musicale, che sarà presente venerdì sempre dalle 11 alle 13 in diretta su CRM. Ancora musica italiana. Chissà se ci pensi mai, lo sai che anche il mare più blu poi nasconde scogli, c'è da correre per rimanere dove siamo. Perfetta così questa nostra stagione, di giorni insieme ad esplorare noi. È perfetta così, ma non c'è per amore che non abbia bisogno di un po' di cure. Per diventare quel che siamo. Perfetta così questa nostra stagione, di vita insieme a innamorare noi. È perfetta così, ma non c'è vero amore che non abbia bisogno di un po' di cure. Freno e non riesco più Vi ricordo stasera concerto evento per ricordare Lucio Dalla. Oggi sarebbe stato il 70° compleanno dell'artista bolognese, invece si ricorda il primo anniversario della morte dell'artista. E sarà Rai 1 in prima serata a ricordarlo con uno spettacolo in diretta da Piazza Maggiore a Bologna, titolo 4 marzo. Ci saranno tanti amici di Lucio Dalla, tra cui Samuele Bersani, Mario Biondi, Andrea Boscelli, Luca Carboni, Pier Davide Caronte e tanti altri. Dalle ultime note di questa canzone di Eros Ramazzotti, Francesco Puglisi vi saluta, vi ringrazia per aver seguito la trasmissione e vi rinnova l'appuntamento a venerdì mattina, sempre dalle 11 alle 13 in diretta su CRM.